Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, in questo inverno senza freddo oggi abbiamo comunque voglia di colori, di mare e sapori ricchi. Poi torneremo alla nostra passione, che sono i viaggi lenti, a piedi, quelli fatti apposta per guardarsi intorno. E infine qualche nuovo spunto per muoversi, il sommario. Questa settimana andiamo in Colombia per sfatare qualche cattiva opinione e respirare il calore e l'allegria del Sud America. Poi incontriamo i ragazzi di Va Sentiero, che tra poco riprenderanno a camminare dal centro al meridione. In chiusura, le nuove aperture di Flixbus. Qualcuno ha detto che in Colombia avere allucinazioni è la normalità, una frase che si presta a diverse e possibili interpretazioni. A noi piace pensare che sia un paese dove la normalità, ammesso che esista, non è usuale. In questo viaggio ci accompagna Gloria Isabella Ramirez, ambasciatrice in Italia. Colombia è il paese, penso, della numero uno in la biodiversità, un paese che ha le due oceani, e le più belle spiagge, anche la montagna, le colori verdi, le frutti, le flori, le fiori, la più bella, allegre gente della Colombia, perché abbiamo anche la musica. Ecco, vorrei che lei mi descrivesse un po' di più la gente. Che gente si trova in Colombia? La gente è una gente molto simpatica, molto gentile, molto accogliente. È un po' come l'Italia, perché io mi sento a casa qui, in Italia. Allora ci accompagni un po' in questo paese. Se lei dovesse raccontarci un tour virtuale della Colombia, da dove partirebbe? Di dove partire queste tour virtuali? E allora io comincerei il tour da Roma a Cartagena. E Cartagena è una città che è circondata da mura antiche. È una città vivante, che con un mare bellissimo, con le isole del Rosario che sono accanto, e con la musica, con il cibo, con un cibo fantastico, perché è un cibo tipico della Colombia, dove ci sono tanti posti tipici, allegri, fascinanti, che è patrimonio anche della UNESCO, Cartagena. Poi direi che al Caribe, perché siamo al Caribe, Cartagena è il Caribe, continuerei a due città che sono vicini, che una è Santa Marta, dove si trova il Parco Tayrona, uno dei più importanti parchi naturali d'America e del mondo, penso, che ha ancora le indigene e che è un parco totalmente protetto, dove si può fare la camminata verso la montagna, verso il mare, e dove ci trovano degli indigeni che sono il Guayú e le Aruaco, sono due tribù indigene, e si può andare anche a piedi a Città Perduta, che ha tre giorni camminando. Si può andare tre giorni o si può fare un'escursione di 10 giorni, per quelli che gli piacciono la vera avventura. E che ha un clima, Santa Marta, un clima speciale, perché ha la Sierra Nevada di Santa Marta, e allora è una città che ha il mare, però che è in fronte alla montagna, e che ha un clima splendido. Cioè, sono tre città importanti lì. C'è anche la Guajira, e la Guajira è la regione più vicina a Venezuela, e la Guajira è anche il cabo della vela, che ha de spiagge bellissimi e che è il punto migliore per fare il skysurf, perché ci sono dei venti fantastici, e anche un sito molto importante per l'economia e per l'investment con l'Italia, perché l'Italia ha molto, molto investimento delle energie rinnovabili, e il posto più migliore per il vento è la Guajira. Sì. Poi possiamo andare a Bogotà, allora si ritorna, o a Santa Marta, o a Riohacha, la capitale della Guajira, e se va a, se voi industriali, la terza città della Colombia, prima di andare a Bogotà è Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla, que pensamos anche portarlo en Italia quest'anno per la celebración de la independencia, el Carnaval de Barranquilla, que anche vogliamo fare un gemelaio con Venezia, perché abbiamo un bello carnaval come quello de Venezia, e una cosa que voglio fare prima di andare via come ambasciatora è fare un gemelaio fra la Colombia e Barranquilla. E una cosa molto importante è che Shakira è de Barranquilla, Shakira è nata a Barranquilla. E qui sposiamo anche la musica. Ma chiaro, la musica, il Carnaval di Barranquilla. Shakira, il suo padre è arabo, ma la sua madre è di Barranquilla e lei è nata in Barranquilla. E allora possiamo andare da Barranquilla a Bogotà. E Bogotà è una città metropolitana, a 2800 metri di altezza, ma è una città cosmopolita. È una città che ha tutto, abbiamo 10 milioni di abitanti adesso, abbiamo teatri, ristoranti internazionali, musei, fantastiche università per esempio. E, se è stato detto prima che Bogotà era come la Atene latinoamericana. Abbiamo il Museo dell'Oro, abbiamo il Museo Botero, di Fernando Botero, che è una cosa che è anche un gemellaio con l'Italia, perché Fernando Botero, sai, è il nostro più importante artista che è ancora vivo e abita a Pietrasanta. Si tu no vuelves, no quedarán más que desiertos. Ambasciatrice, io le voglio chiedere se secondo lei è facile girare il paese, cioè se io sono un visitatore. C'è una connettività fantastica. Allora, ti fai la costa, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, La Guajira, poi si può andare a Bogotà con l'aereo da qualsiasi di queste città, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla o Riohacha, si può andare a Bogotà. E poi si vede Bogotà, e poi da Bogotà si può andare, e noi siamo un po' come l'Italia, che siamo un paese di tante regioni, e con volo diretto da Bogotà a tutte le città della Colombia, con aeroporti importantissimi e quasi tutti internazionali. Da Bogotà si può andare per esempio, se vuoi andare a Medellín, che è la seconda città della Colombia, io andrei a Medellín dopo Bogotà, che è la città della eterna primavera. E Medellín ha un clima fantastico, perché ha a mille metri di altezza, è la città dell'eterna primavera con fiori, frutti, è la città che noi diciamo che è come Milan, che è la città industriale dove la gente è imprenditora, dove c'è il textile, dove c'è l'industria, dove c'è tante agroindustria, ma anche industria. È una città che ha delle montagne bellissime. E poi da Medellín io andrei alla zona del caffè. Io sono nata alla zona del caffè, al cuore della zona del caffè, a Pereira. E Pereira è una città di 500.000 abitanti, e noi siamo alla stessa altura di Medellín, un po' più alto, 1300-1400, e abbiamo il più buon caffè della Colombia. E si chiama la zona del caffè, e sono Pereira, Manizales e Armenia. Lì si trova un'architettura diversa, che la chiamiamo l'architettura del caffè. Ci sono de casa e di aziende che sono bellissime, vicinissime alla città, dove si può vedere tutto il processo del caffè da differenti posti. Ci sono de piccoli posti che sono molto tipici della Colombia. È un turismo diverso, è un turismo un po' ecologico. E poi, se avete più tempo, ci andate all'Amazzonia, a Cali, che è la città della salsa, che è una città, la terza città della Colombia. E poi, se avete più tempo, all'Amazzonia. E cada notte vendrà una estrella a farmi compagnia. Beh, lì ovviamente c'è bisogno anche, appunto, come diceva lei, di un po' di tempo da dedicare, perché ecco, un po' di tempo da dedicare, e questo dipende di qual è l'interesse di ogni persona, no? Se avete 15 giorni, io andrei prima al Caribe, Cartagena, Santa Marta, la Guajira, e poi andrei a Bogotà, Medellín e la zona del caffè. e poi una seconda volta andare a Cali, l'Amazzonia, però ci sono tanti, noi siamo come l'Italia, abbiamo 5 regioni, diciamo, ma queste 5 regioni hanno 8 città importanti, ognuna con aeroporto nazionale e anche internazionale. È molto facile di viaggiare in Colombia, è molto sicuro, molto diverso. Ecco, proprio questo le volevo chiedere, volevo chiederle sulla sicurezza, perché sì, anche diciamo viaggiatori soli possono tranquillamente girare il paese? Sì, e le grandi città è come in qualsiasi città del mondo che devi stare attenta, devono portare... Però l'unico rischio è che volete rimanere, come dice la nostra pubblicità. La sicurezza non solo è una sicurezza per i cittadini che vuoi andare, ma è una sicurezza giuridica, è una sicurezza politica, è una sicurezza economica. Noi abbiamo una democrazia da tanti anni, per gli investitori c'è una sicurezza giuridica che non si trova, penso, che da nessun altro posto. Siamo completamente sicuri e siamo molto vicini all'Italia anche per questa creatività che abbiamo sempre a tutte le regioni. È una sicurezza che sì, per volta abbiamo avuto un problema con la FARC, questo è solto completamente, e non hai mancanza di sicurezza alle città, e per il turista c'è tanta sicurezza. Ambasciatrice, le ultime due domande. Voglio partire dal mare. Lei ha detto è un paese che ha tutti e due gli oceani. Sì. Lei quale preferisce? Il Caraibi, per me. Ma il Pacifico è anche interessante di vedere, perché è più forte, no? È più sovaggio, è il più selvaggio. Certo, è più impetuoso dall'altra parte. Dal Pacifico è più selvaggio, del Caribe è più ha più abitanti, è più turistico, è più sviluppato il Caribe, meno che il Pacifico, ma al Pacifico c'è anche il porto di Buenaventura, che è molto importante per noi e per tutta l'America del Sud, perché come sapete noi siamo il primo paese dopo Panama. E lì comincia l'America del Sud. L'ultimissima domanda invece riguarda la cucina. Sì, mi racconti in poche parole la cucina colombiana. La cucina è una cucina molto diversa e soprattutto abbiamo una buonissima carne che gli piace tantissimo, per esempio all'italiano, e abbiamo tutte le frutte tropicali che tu non hai mai visto, una frutta tropicale che cominciano dall'arancia e fino al lulo, la guanabana, la guayaba, e questo è una cosa di tanti colori, e le fiori che si trovano per tutta la Colombia, e che la orchidea, che è la nostra fiori nazionale, i fiori, le frutti, però per il cibo io direi la carne, ci sono tanti diversi supi, il pesce è anche buonissimo al Caribe, ma noi siamo un paese molto, non così mediterraneo, però tropicale. Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In Viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. Globetrotter 24. Dove te ne stai andando, amico mio? Me ne vado al mare. In principio erano in tre e lo scorso anno vi abbiamo raccontato la loro avventura, percorrere a piedi tutto il Sentiero Italia. Sono partiti il 1 maggio del 2019 e si sono fermati il 30 novembre. Tra poco ripartono e hanno intenzione di finire il giro Italia centrale e meridionale. Il loro sito è vasentiero.org e hanno bisogno anche di voi. Il racconto è quello di Yuri. Siamo partiti il 1 maggio da Muggia, quindi dal Golfo di Trieste, e in 7 mesi esatti abbiamo percorso dapprima l'arco alpino e poi l'Appennino centro-nord. E devo dire che insomma è stata un'esperienza molto intensa da un punto di vista fisico anzitutto, da un punto di vista soprattutto umano. Abbiamo incontrato tantissime persone, sia persone dei posti attraversati che ci hanno accolto, che ci hanno insomma introdotto nei loro luoghi e nelle loro vocazioni, che tantissime persone che si sono aggiunte a noi, perché Vasentiero è un po' come nel film Forrest Gump, è una spedizione partecipativa per cui chiunque voglia può aggregarsi a noi e fare un pezzo di strada. E abbiamo avuto davvero migliaia di persone che giorno dopo giorno si avvicendavano in questa sorta di carovana. E quello è stato, diciamo, talvolta anche difficile, non facile da gestire quantomeno, ma molto molto molto stimolante, anche perché poi in cammino vedi davvero persone di tutti i tipi, no? Quindi dall'avvocato allo studente di 18 anni, insomma è stata un'avventura, più che altro un viaggio dentro l'Italia, come dire, di montagna, ma anche dentro il paese Italia, ecco. Senti, io immagino che ovviamente ci siano tantissimi posti che vi portate dentro, però vorrei che tu ne scegliessi uno per magari raccontarcelo un po' di più. Ma dunque, un posto che personalmente mi è rimasto nel cuore è questo piccolo paesino che si chiama Codera. Codera è in Lombardia ed è a poco a nord del lago di Como, ed è, diciamo, di tutto l'arco alpino l'unico paese tuttora permanentemente abitato, seppur da 6 persone, raggiungibile solo a piedi. Quindi per arrivare a Codera bisogna affrontare, diciamo, questi 4.000 scalini tutti in salita che portano in questa vallata e in questo piccolo paese. E il paese, diciamo, è un gioiello. Il motivo per cui mi ha colpito, al di là della sua unicità, è il fatto che è un po' il simbolo di un'Italia, diciamo, delle terre alte che sta scomparendo. Queste persone che vivono questi luoghi, insomma, lo denunciano anche con tristezza, lo dicono: tra 30-40 anni, quando noi non ci saremo più, qui non ci sarà più niente, nessuno. E sono posti incredibili, anche perché, diciamo, la montagna, più che in quanto non avvenga in pianura, trattiene, no? Identità, quindi sopravvivono molto di più dialetti, tradizioni, le ricette locali e via dicendo. Queste persone ci hanno accolto a Codera con una festa incredibile, ci hanno accolto addirittura con un tenore che è venuto apposta, si è fatto 4.000 scalini per accoglierci con Va Pensiero, cantando Va Pensiero. E, insomma, è stato, diciamo, un momento molto emozionante e mi è rimasto davvero nel cuore vedere queste persone che lottano con tutte se stesse cercando di tenere vivo questo luogo e al contempo, insomma, hanno questa tristezza nel cuore. E, insomma, spero che presto, insomma, qualcuno arrivi a ereditare il loro lavoro e a portarlo avanti, perché davvero non possiamo permetterci di sprecare tutto questo patrimonio, che tra l'altro ha un potenziale anche economico notevole, e di questo, insomma, bisogna ragionare. Ma dimmi un po' che cosa stai cercando, io cerco la risposta. Un'altra domanda che voglio farti in merito a questa esperienza che già avete vissuto è come vi siete trovati dal punto di vista, vorrei dire, più logistico, che però comunque è interessante anche per chi volesse da qui in avanti magari ripercorrere i vostri passi, quindi gli spostamenti o anche gli alloggi, cioè se avete avuto facilità o se in alcuni casi vi siete trovati in difficoltà. Ma allora, diciamo che il Sentiero Italia, che è in questo momento sotto fase di restauro da parte del CAI, è, diciamo, un'infrastruttura ancora in corso di, appunto, di realizzazione, di manutenzione. Diciamo che in generale, fino a questo momento, quindi fino all'Italia centrale, tante tappe coincidevano più o meno con delle strutture ricettive, non tutte, e quindi, insomma, talvolta ci siamo dovuti un po' arrangiare. Diciamo che la nostra forza a livello di team è che siamo 7 persone, una delle quali ha proprio un compito ben preciso: chi fa le foto, chi fa i video, chi si occupa della ricerca culturale, eccetera, eccetera. Tra queste figure c'è anche un cosiddetto ufficiale logistico che si occupa esattamente proprio di trovare un tetto per la notte. Essendo che il progetto appunto non è un'impresa sportiva ma vuole valorizzare i luoghi attraversati, spesso abbiamo ricevuto l'aiuto spontaneo delle comunità, per cui spessissimo magari ci chiamavano privati o i sindaci dicendo: ah ragazzi, vediamo che arrivate qui vicino, veniamo volentieri ad accogliervi, se avete bisogno veniamo a prendervi, vi portiamo a dormire qua, poi vi riportiamo sul sentiero. Insomma, diciamo che abbiamo avuto, insomma, quasi sempre, siamo sempre caduti in piedi, ecco, mettiamola così. Yuri, lanciamoci in avanti perché l'esperienza non è finita. Avete ovviamente osservato una pausa che è coincisa un po' con l'inverno. Adesso da dove si riparte? Dove andate? Quanto dura? E come vi state aiutando per portare avanti questa esperienza? Allora, noi siamo arrivati appunto il 30 novembre a Visso, dopodiché abbiamo deciso di fare una pausa di circa 3-4 mesi, durante la quale stiamo lavorando a tantissimo materiale raccolto, quindi che pubblicheremo presto sul nuovo sito vasentiero.org, che sarà, speriamo, insomma, una bella finestra aperta sulle terre alte, che darà gli strumenti pratici a tutti coloro che vorranno mettersi in cammino lungo il sentiero d'Italia. A fine marzo, il 28 di marzo, ripartiamo da Visso, questo piccolo borgo ai piedi dei Monti Sibillini nelle Marche, e affrontiamo tutto il centro-sud, quindi tutte le regioni rimanenti, dalle Marche fino alla Sardegna, dove arriveremo, si spera, verso metà novembre, dal calendario che ci siamo fatti. E in questi 7 mesi, diciamo, continueremo ovviamente non solo a camminare, ma a raccogliere giorno dopo giorno informazioni sul territorio. Ci tengo a dire che per noi questi sono i territori che più hanno bisogno di essere esplorati, conosciuti e valorizzati, promossi. Ed è anche questo il motivo per cui abbiamo scelto di percorrere il sentiero da nord a sud, nell'ottica quindi di diciamo raccogliere man mano attenzione e poterla dedicare a queste terre, visto che insomma sono terre incredibili, almeno questo è il mio, io sono per metà siciliano e insomma queste terre ce le ho un po' nel cuore. Per quanto riguarda, diciamo, la sostenibilità del progetto, posto che è un progetto volontario, siamo tutti volontari, come l'anno scorso abbiamo deciso di lanciare una campagna di crowdfunding. L'anno scorso abbiamo ricevuto un grandissimo sostegno da parte delle persone e così abbiamo fatto lo stesso quest'anno. La campagna è online da qualche giorno, vi si trova facilmente il link dal nostro sito vasentiero.org, e stando, devo dire, alla grande, per cui insomma speriamo che siano più persone vogliano sostenere e scoprire anche, diciamo, i premi che ci siamo impegnati a trovare. Voglio chiederti se c'è una tappa che diciamo ti incuriosisce particolarmente di questa nuova parte dell'avventura. Ce ne sono parecchie, devo dire che, se posso segnalarne un paio, direi, beh, innanzitutto la partenza da Visso, che diciamo è un luogo simbolo del terremoto e insomma sarà una festa, così come è stata una festa arrivarci, sarà una festa ripartirci. Per quanto invece riguarda una tappa che personalmente sono un po' curioso di fare, diciamo più delle zone forse, moltissimo la Calabria, che conosco davvero pochissimo, l'Aspromonte deve essere un luogo molto affascinante, molto selvaggio, l'Etna, beh, insomma, appunto, dicevo, sono per metà siciliana, quindi l'Etna insomma sarà una giornata, spero, splendida, perché se le condizioni sono quelle ideali, il panorama è totale. E poi la Sardegna, anche l'entroterra della Sardegna è qualcosa che mi affascina moltissimo, questi canyon, questi altipiani, queste Dolomiti sarde, insomma, è una terra che ho molta voglia di scoprire. E poi ovviamente l'arrivo a Santa Teresa di Gallura, dove dovremo farci il bagno, ecco. Vi piace viaggiare in pullman? Lo trovate comodo ed economico? Flixbus si allarga e la notizia vi farà piacere. Andrea Incondi, amministratore delegato di Flixbus Italia. Flixbus espande anche nel 2020, raggiungerà nuove nazioni come il Regno Unito, il Portogallo, approderà per la prima volta nei Paesi Baltici e in Marocco, che rappresenta la prima nazione del continente africano in cui entriamo. Questa del Marocco è una sfida particolare o non avete trovato grossi problemi? A noi piacciono molto le sfide, quindi come siamo entrati in tanti paesi differenti con caratteristiche differenti, così vediamo anche il Marocco come un paese dove possiamo offrire una mobilità conveniente, green, smart, e poter anche in quel territorio offrire, chiaramente inizialmente con collegamenti internazionali e poi con la possibilità di offrire anche collegamenti nazionali, anche quel territorio. Quali saranno i collegamenti che riuscirete a coprire all'interno del paese? I primi collegamenti saranno internazionali e saranno a partire da febbraio, quindi stiamo collegando le prime città. Sono ben 27 le città francesi della rete Flixbus che potranno raggiungere appunto 9 destinazioni in Marocco, tra cui Rabat, Marrakesh, Casablanca e tante altre, con appunto un accordo che abbiamo fatto con un partner di quella zona. E invece per quanto riguarda gli altri paesi che si aprono in questo anno? Sì, come dicevo prima, Portogallo, quindi offriremo, noi avevamo già dei collegamenti internazionali, quindi arrivavamo già in Portogallo dalla Spagna o dalla Francia, finalmente potremo offrire dei collegamenti nazionali in quelle città. Dopodiché paesi baltici, quindi parliamo di Lettonia, Estonia, Lituania, che in questo caso non offrivamo neanche con collegamenti internazionali, adesso finalmente avremo collegamenti internazionali e nazionali all'interno di quei paesi. E infine, come ho anticipato prima, Regno Unito, quindi Londra è già stata collegata frequente da parte di Flixbus, da parte appunto delle città come Parigi, Berlino e tante altre, oggi finalmente offriremo anche dei collegamenti nazionali anche all'interno del Regno Unito. Ricordiamo velocemente come si utilizza Flixbus. Flixbus è molto semplice, basta andare sulla nostra app o sul nostro sito internet e si possono acquistare appunto biglietti per collegamenti di migliaia di città in Europa e da pochissimo appunto, come detto, in questi nuovi paesi o anche negli Stati Uniti. È molto facile, basta cercare le città a cui si vuole raggiungere, la partenza, indicare l'orario e con pochi clic si può acquistare il biglietto. C'è la possibilità di acquistare anche i biglietti presso le nostre agenzie viaggio o tutte le agenzie che lavorano per conto di Flixbus che sono distribuite su tutto il territorio. E anche per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. Un ringraziamento in regia a Roberta Frisani. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.